da parte nostra come casa editrice un grazie anche a voi che ci date la possibilità di presentare questo libro stasera qua in questa biblioteca. Presentiamo le due guide curiose scritte da Bruna Maria da Lago Venari. Due donne curiose. Con due donne curiose ma anche splendide, direi, con un background diciamo mitteleuropeo, proprio da quella zona, con le esperienze nell'ambito storico che anche turistico che tutti e due hanno già scritte parecchi libri e guide del nostro territorio, della nostra regione. Ich werde ja auch ein bisschen auf Deutsch sprechen, weil wir nämlich beschlossen haben, diese Buchvorstellung zweisprachig zu gestalten. Warum? Erstens, weil wir in einem zweisprachigen Gebiet natürlich leben, weil wir die zwei Bücher auch in beiden Sprachen herausgebracht haben, natürlich mit Bruna als Autorin di Madrelingua Italiana, aber dann von Wolfgang De Concini übersetzt. Wir werden vielleicht auch ein bisschen übers Übersetzen sprechen. Bevor wir die zwei kuriosen Zugänge zu unserem Territorium angehen, denke ich, dass ich die zwei Damen kurz vorstellen werde. Also Bruna Maria da Lago Venari, natürlich in Bozen geboren, dreisprachig, mit Background natürlich auch Ladinisch, Italienisch, aber Deutsch. Deutsch vor allem auch über ihren Mann und natürlich über ihre sehr ausgeprägte Übersetzertätigkeit. Sie hat sehr viele Texte und Bücher übersetzt. Selbst Schriftstellerin, Kolumnistin, soprattutto per il Corriere dell'Attuale, cioè però anche per il Corriere Nazionale, se non sbaglio. Beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit dem Bereich Sagen, Traditionen, Mythen, Legenden in Südtirol, aber natürlich auch in diesem Territorium der Region, also auch gerade die ladinische Welt, die an Sagen sehr reich ist, wie natürlich auch dem Trentino und Südtirol als zwei Provinzen, mit sehr vielen Büchern, die bereits publiziert worden sind, mit sehr vielen und unterschiedlichen Verlagen und auch großen Verlagen. Wolfgang De Concini, eine eigentlich aus Böhmen gebürtig, dort vertrieben worden. Vor kurzem erst ein eigenes Buch darüber veröffentlicht. Sonst natürlich sehr viele Veröffentlichungen auch wiederum über Trentino, wo es ja schon seit den 60er Jahren lebt. Auch mit einer Biografie, die Zugänge zu diesem Territorium hat, die vielleicht ein bisschen kurioser sind oder nicht ganz so auf Mainstream getrimmt und daher natürlich schon fast prädestiniert, um diese zwei Bücher zu übersetzen. Partiamo forse proprio con la tematica della traduzione. Direi proprio di sì. Vado. Allora, prima di tutto, lui parlava di madrelingua, a noi piace nonna lingua, ci piace okay. Perché la madrelingua è una roba un po' complicata qui da noi almeno. Ecco. Poi, allora, traduzione. E prima di tutto devo dire che conosco Wolfsau da parecchio, bene da non tantissimo, però ci conosciamo da molto tempo. E questo approccio attraverso il mio lavoro, la traduzione, mi ha veramente aperto il cuore all'amicizia, perché la sua traduzione di queste cose, che sono poi cose curiose messe insieme, ne parleremo poi su vario territorio, lei le ha traslate, le ha nel vero senso interpretate, vissute e portate nell'altra lingua. E questo secondo me è il massimo della traduzione. Perché veramente tradurre non vuol dire riportare wortwörtlich, parola per parola, una lingua all'altra, anche perché tante volte non c'è la categoria mentale che rappresenta esattamente quello che uno in una lingua o nell'altra lingua chiaramente vuole dire o significa. Ecco, per questo io ringrazio moltissimo E voi vedrete, perché nel corso di queste chiacchierata che facciamo oggi pomeriggio verranno letti alcuni brani, e non vorremmo, tutte e due siamo d'accordo, non credo che faremo in italiano e in tedesco lo stesso pezzo, perché vorremmo proprio dare il senso della lingua, quale è, come suona e come appunto lei in questo caso è riuscita a portare in un'altra lingua quello che io speravo di poter dire, ammetteteci anche la mia pochezza, insomma, quello che cercavo di dire in un argomento così complesso e vario come è questo di queste guide curiose, che sono curiose proprio per il fatto che portano delle notizie che non sono, alle volte sono notizie anche di tutti i giorni che tutte le sanno, ma non tutti le sanno tutte, cioè questo andare attraverso il territorio e rendersi conto che già i muri, gli alberi, le chiese, i luoghi parlano e dicono qualche cosa, e dicono anche delle cose che sono un po' diverse da quello che uno pensa che dicano. Ecco, su questa base di discorso, su questo viaggio attraverso il territorio, e qui di nuovo una piccola osservazione, come Thomas ha già fatto presente, è un territorio regionale, e visto che noi due siamo state appunto citate come rappresentanti di quella che era proprio questa Mitteleuropa, questo sentimento mitteleuropeo, ecco, andare avanti, andare a passeggiare per questa regione cercando in definitiva quello che per noi, non so, ormai diventa forse un sogno, non lo so, non voglio pensarci, è proprio il fatto dei nostri cugini, i cugini trentini e viceversa i cugini bolzanini, ecco, o altoatesini per essere più chiari. Ecco, cioè questo, anche questo discorso di vicinanza e di trasmissione, di nuovo traduzione, traslazione di alcune usanze, di alcune tradizioni che ci sono lì e ci sono lì, con delle sfumature un po' diverse alle volte e alle volte no. La differenza che io trovo molto grande fra le due, diciamo, le due province non è tanto, questa è una mia personale opinione e confutabile quando volete, non è tanto dal fatto che i trentini sono lì e parlano l'italiano, gli altoatesini sono qui, parlano più il tedesco, non solo, eccetera eccetera, anche perché ci sono enclavi, lo sappiamo tutti, di lingua tedesca nella parte trentina, ci sono poi i territori ladini, insomma il discorso non è così semplice da fare, ma il fatto del riportare le vecchie tradizioni o le vecchie usanze o le curiosità riguarda più che altro non tanto la differenza da una provincia all'altra, quanto l'altitudine, se vuoi una parola buffa, cioè sicuramente in bassa quota o in valle le tradizioni o le vecchie usanze, la interpretazione delle vecchie tradizioni è andata, non dico perduta, ma si è un pochino, è diventata più acquosa, diciamo, mentre in cima, nelle alte montagne, rimane più vera, e forse lì è dove noi troviamo più ricordi rispetto alla tradizione popolare in particolare, ma anche curiosità più particolari. Questo più o meno così in linea di massima. E ripeto, l'importanza, secondo me, di portare questo libro, questa guida curiosa quanto volete, di portarla così, in questa forma, e di questo devo ringraziare la casa editrice, perché veramente è stata una scelta e un aiuto molto grande da parte loro, perché questo libro l'abbiamo un poco rivoltato, perché prima volevamo farlo, cioè io pensavo di farlo in ordine alfabetico, cioè dividendo la tematica in ordine alfabetico, che poi era un'idea anche sbagliata in qualche modo, perché è molto più semplice e consultabile così, perché così è chiaramente, uno va a cercarsi da una particolare valle e trova le cose che vuole in questa zona. Ecco, poi l'aiuto grandissimo anche della casa editrice, che devo ringraziare, lo faccio subito se non mi dimentico, ecco, perché per il loro veramente sono prestati moltissimo a mettere a posto e aggiungere delle cose sulle quali io in primo momento non ero molto felice, ma dopo ho capito che erano fatte con grande intelligenza, queste piccole note che ci sono in fondo ad ogni capitolo, che sono note utilissime per quello che è una guida. Questa è una guida turistica, è una guida curiosa, ma è una guida, a parte che io forse, facendo di professione forse più, dico fra virgolette, la letterata, forse non lo sono, ma provo almeno, ecco, mi interessano cose diverse, però sicuramente apprezzo moltissimo anche questa cosa. Grazie a Eva, grazie a tutti. Grazie, grazie a te. Però per, um vielleicht nochmal zu erklären, warum es auch dazu gekommen ist. Also wir haben den Text präsentiert bekommen als, als literarischen Text, als den wir ihn natürlich auch geschätzt haben. Aber in dieser Form, eben alphabetisch geordnet, die einzelnen Geschichten aneinandergereiht, hat uns nicht ganz überzeugt, weshalb wir diesen Weg gewählt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht nur ein Reiseführer, non è soltanto una guida turistica, che si dedica proprio soltanto a turisti. Für uns ist es wirklich ein Lesebuch auch geblieben, weil die, die Originaltexte natürlich jetzt nach, nach Zonen oder nach, nach Talschaften, nach Tälern geordnet aufgelistet sind. Aber jede Ortschaft hat etwas zu erzählen. Fast überall gibt es etwas zu entdecken. Es sind oft kleine Geschichten, die jetzt nicht in den, in den, in den Geschichtsbüchern stehen oder in anderen Werken schon verarbeitet worden sind. Es sind die Traditionen und Erzählungen, die vor Ort vorherrschen. Da kann es einmal auch um einen Mordfall gehen, da geht es um archäologische Funde, da geht es um, um diese Zugänge, die wir unter diesem Begriff kurios zusammengefasst haben. Aber damit ist, haben wir jetzt vielleicht noch einen wichtigen Punkt erreicht. Kurios. Ma, cos'è per te la curiosità? La curiosità è quello che desta, proprio è lo spunto che ti resta la voglia di dire qualcosa, qualcosa ti incuriosisce, perciò ne parli. E la curiosità si può svolgere in tantissimi modi, si può svolgere tornando, e qui è anche molto interessante di nuovo questa nostra collaborazione, il fatto che molte cose, nel mio modo di interpretare il curioso, naturalmente il mio, non quello di altri, è quello di andare indietro anche storicamente a cose che io ricordo che fanno parte del, di questo bagaglio della terra dove viviamo, e allora ci sono notizie storiche scivolate dentro così, magari senza tanta, senza tanta fatica o così, proprio en passant, oppure altre. Questo, ecco, questo suscitare la curiosità sta proprio in questa specie di momento che una cosa suscita l'altra, l'altra un'altra, un'altra ancora, e credo, e qui faccio di nuovo un complimento senza assolutamente sentito a Wolfstraut, che si è trovata con una scrittrice un po' mattarella, che sarei io, e con dei salti pindarici non proprio semplicissimi, perché io vado e basta, insomma, ecco. E magari ho dei miei motivi, cioè giuro li ho di solito, non sono così irrazionale, ma in qualche modo è sicuramente una conduzione oltre che di testa anche di pancia, non so come spiegarvi, ecco. E va così, e allora naturalmente riportare anche questo essendo fedele alla cosa è, credo, il massimo della traduzione. Scusate, ma ci voleva, perché è così. Voi lo vedrete, ce lo avrete in mano, è proprio un libro che ti dà tantissimi spunti e anche voglia di, non è solo curioso nel voglia di vedere altre cose, ma per esempio, e questo lo dicevo anche in conferenza stampa, è curioso nel fatto che io stessa, se dovessi mettermi oggi, ci metterei altre 10 cose che non ho messo, che mi sono dimenticata quello, per Baco non c'è neanche questa cosa qui che mi sembrava così importante, eppure mi è scappata di mano, oppure notizie nuove, cose che tu leggi sul giornale tutti i giorni e che trovi e che dici guarda questo sarebbe bello aggiungerlo, ecco, perciò è uno di quei libri che magari speriamo vada bene e che sarebbe bello appunto rimaneggiare ogni tanto, nel senso di aggiungere, di girarsi in qualche modo. Così. Kommen wir vielleicht kurz auf die Übersetzung zu sprechen. Übersetzen ist ja eine schwierige Aufgabe an und für sich. Man muss sich in beiden Welten zurechtfinden, man muss beide Welten kennen und dann sich dem Text widmen und liest ihn natürlich mit einer Genauigkeit, die meist ein Lektor, auch wenn er sich noch so bemüht, nicht ganz so genau nimmt, weil man darüber liest und es verständlich findet. Aber natürlich bei der Übersetzung muss man dann wissen, ist es jetzt so zu übersetzen oder anders? Da gab es doch einige Nachfragen auch gegeben. Genau. Erstmal, es gibt im Deutschen ein Sprichwort, apropos Übersetzung. Das heißt, eine Übersetzung muss so getreu wie nötig sein und so frei wie möglich. Nicht? Also man hat, geht, jeder Übersetzer pendelt zwischen diesen zwei Extremen, sagen wir mal. Der Notwendigkeit, der, dass man den Text getreu im, im Inhalt und auch in der Sprachebene wiedergibt. Und auf der anderen Seite aber die Möglichkeit, doch der Sprache eine, auch eine neue Form zu geben. Denn ich glaube, jeder Übersetzer ist auch ein, fast ein Schriftsteller. Ein Autor, ja. Ja, ein Autor auf jeden Fall. Ja, wenn man ja. Es, denn jeder hat in sich schon einmal eine Anlage, wie er einen Text aufbaut. Einer ist emphatischer, der andere ist konkreter und so weiter. Drum bringt schon der Übersetzer selber seine Persönlichkeit in den Text mit hinein. Dabei muss man aber absolut dann den Inhalt, den Gehalt und die Stilebene beibehalten. Denn es macht einen Unterschied, ob ich einen Text von Bruna Maria übersetze. Und auch hier gab es sehr viele Unterschiede, ob es um historische Fakten ging, ob es um Mythen ging, ob es um, Sagen und Hexen und so weiter ging. Oder ob ich einen kunsthistorischen Text übersetze oder einen wissenschaftlichen oder so. In jedem Fall muss ich diese Stilebene beibehalten und versuchen, so getreu wie möglich, aber eben so wie nötig und so frei wie möglich wiederzugeben. Continuo l'italiano adesso. Comunque, bisogna dire che ogni traduzione è un sì, bisogna essere a casa, diciamo, in tutti e due i mondi, e di solito si traduce dalla seconda lingua nella madrelingua. E ogni traduzione comunque è per me un grande arricchimento, perché non solo perché imparo molte cose, come qui ci sono, c'è un pozzo, non di 10 pozzi di scienze, di nozioni, eccetera, che li ho fatti miei almeno per un po' di tempo. Però è un arricchimento, perché vengo a conoscere anche la persona che ha scritto questi testi, ci si avvicina non solo attraverso un contatto telefonico o personale, ma già leggendo questi testi ci si avvicina alla persona e si avvicina al mondo di questa persona. Comunque è appunto un mondo nel quale ci si emerge ogni volta nuovamente, ed è molto importante cercare di capire cosa voleva dire un autore, e se dopo dovendolo tradurre, come diceva il Thomas Kager, si legge parola per parola, come un lettore normale forse non legge mai un testo, allora ci si accorge eventualmente di incongruenze o di cose che devono essere aggiustate. Certo. Io penso che mai appunto come un traduttore legge il testo con precisione, con attenzione, perché lo deve rendere nell'altra lingua e non deve andare perso niente, deve rimanere tutto com'è, però senza perdere niente. E a questo proposito ancora veramente devo dire che ci sono stati delle precisazioni importanti, cose che io magari avevo soltanto così e non erano ben chiare o ben dette, e sono state pulite anche proprio per opera della traduzione. Dunque proprio l'importanza del quello che dicevamo anche con amici e anche con te, questo di autotradursi in definitiva, cioè di cercare di mettere una stessa frase per vedere se vale, se ha un senso, cercare addirittura di tradurla. Io stessa ogni tanto mi autotraduco per vedere se quello che dico non sono stupidaggini, insomma, più o meno in questo senso. Sì, io questa autotraduzione, tanto per fare un po' di pubblicità a questo libro a cui accennate, l'ho fatto ultimamente, perché ho scritto un libro appunto sui miei ricordi boemi, le mie vicissitudini boeme, e l'ho scritto in tedesco e dopo l'ho riscritto, tradotto in italiano io stesso, però me lo sono fatto controllare, il testo italiano non mi fidavo, infatti c'erano parecchie piccole cose da aggiustare anche nella lingua, che non scorrevano come avrei voluto. Sì, però è comunque un confronto anche di sostanza oltre che di lingua, ecco. Bene, direi che entriamo proprio nel libro, nei due volumi, sia quello dell'Adige che quello del Trentino. Abbiamo deciso di presentare due o tre cose, una volta le due capitali, sia Trento che Bolzano, poi delle tradizioni, quell'aspetto lì, sia la Val Sarentina che la Val di No. Poi due loghi astronomici e direi, Bruno, a te decidi con cosa partiamo, perché abbiamo qualche foto da far vedere per quello. Allora no, vai pure secondo questa linea. La sequenza, le foto. Le faccio vedere poi io. Per quello partiamo con Bolzano? Partiamo con Bolzano, facciamo un omaggio alla città dove siamo, partiamo con Bolzano. Allora Bolzano, mi sembrava sempre importante, questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte anche con tante persone, con Paola che è qui per esempio, con Paola Bassetti. Bolzano che passa per essere, vabbè, la città turistica finché volete voi, la città del vino, importante per il vino eccetera, invece la parte forse più importante della città di Bolzano è che è una città d'acqua. Allora la città d'acqua perché solcata da questi suoi torrenti e fiumi, perché con tutta una storia importantissima e lontana di quello che l'acqua ha portato e ha portato via alla città di Bolzano. Ecco, in questo senso sono, credo, le lavandaie di qui. Allora naturalmente l'acqua, naturalmente anche qui fa questo passaggio molto molto interessante. Tiro la testa che non sono molto abile con gli apparecchi come voi vedete. Comunque, dicevo, qui una delle cose che ho scritto su Bolzano è proprio questa visione diversa, dove si passa sotto i portici sono l'esempio della città commerciale, i negozi, eccetera, eccetera, la gente passa per questo, però a me sembrava importante che oltre a questo la gente ricordasse in qualche modo che passare per questi portici voleva dire ricordare antiche memorie dove c'erano portici, c'erano queste rogge aperte sulle quali c'erano le lavandaie che si lavava, tutta la storia di quando si faceva il bucato, cioè queste antiche tradizioni, queste antiche usanze della città di Bolzano riguardo al lavare. Poi naturalmente ce ne sono mille altre e qui abbiamo soltanto accennato brevemente a questo, ma naturalmente non è soltanto la città dell'acqua, è diventata poi anche la città del vino. E qui forse una delle parti anche interessanti che ci avrai sicuro della Cade Bezzi, non so se l'hai messa, ecco, scusa, vedi proprio non ci vedono. Ecco, la Cade Bezzi è qui, la storia della Cade Bezzi, non solo, ma qui di nuovo in questa storia della Cade Bezzi mi è entrato, oltre a una vecchia canzone, se voi volete, che riguarda appunto il perché la Cade Bezzi, che era fuori dalle mura della città, perché eccetera, e poi la tradizione di questi antichi venditori di vino, da dove veniva coltivato il vino, e poi ancora in maniera molto interessante l'apporto di una commenda, l'Ordine Teutonico, del quale poi parlerò ancora, che è in via Wegenstein, vicino alla Cade Bezzi, vicino a questa Cade Bezzi, e l'importanza che aveva questo Ordine Teutonico nella proprietà o nella, comunque di questa vecchissima locanda, e poi di tutti gli autori, di tutti i grandi artisti che hanno lasciato la loro memoria della Cade Bezzi, che non sono più nella Cade Bezzi ma sono a Castelpresole, però lo stesso, comunque queste cose. Volevo solo dirvi come si passa da una cosa all'altra. Naturalmente, tornando ancora al discorso, abbiamo detto dell'acqua, parliamo del vino, naturalmente la Fontana del Nettuno, dove naturalmente è questo Nettuno che dava l'acqua alla città, no? È il vino dei poveri, in fondo l'acqua, e qui questo modo di dire che è anche molto simpatico, e di questo, ma però un'altra cosa ancora, di nuovo l'acqua, e con ricordo, volevo solo darvi un esempio di come funziona più o meno, come non funziona il mio pensare, ecco. Allora dall'acqua mi sono venuti in mente, e dal fatto della Fontana del Nettuno, quindi della Piazza delle Erbe, mi è venuta in mente un'altra cosa, che lì sotto la piazza del Nettuno appunto c'era l'antica gogna e dall'acqua le antiche penitenze, le antiche condanne, le donne venivano affogate, venivano annegate, le donne che avevano fatto, eccetera. E qui c'è tutta la storia naturalmente dei peccati e dei peccatori. Ecco, cioè volevo solo darvi come più o meno da questi due spunti, città d'acqua e città del vino, città del commercio, allora i portici, possono venire alcune curiosità su una città. Adesso non so, vuoi che leggiamo un pezzettino o no? Non so, tu avevi preparato per Bolzano? No. Ma possiamo, ecco, per esempio sulla porticina del vino, se vuoi, che è qui subito. Che pagina? Là non posso dirtelo, questo è in italiano. 133 c'ho io. Cerca Bolzano, ma lo trovi subito. Se no te lo posso anche cercare, se vuoi. Leggi tu? No, leggi un pezzettino in tedesco e poi piccolo, pochissime righe, sai. Allora, das Leiter hat hören. Herzog Albrecht von Österreich hatte der Pfarre schon 1387 das Privileg zum alleinigen Weinausschank bei diesem Kirchenportal verliehen. Es handelte sich dabei wahrscheinlich um den Wein aus den Rebgärten in Leitach. Im Gegensatz zum Bischofswein der Abtei Murigris, die Lagrein produzierte. Lokalpatriotische Streitereien zwischen zwei Pfarren und zwei Gemeinden. Wein wird im Bozener Talkessel schon seit uralten Zeiten angebaut. Auf die Räte, die Holzfässer benutzten, folgten die Römer, denen die Holzbottiche dagegen unbekannt waren. Einer Überlieferung nach soll ein Bozener Bauer namens Potz mehrere Fässer voller Wein auf einem Ochsenkarren nach Rom befördert haben, um sich am römischen Kaiserhof einzuschmeicheln. Der Bozner Wein wurde weithin bekannt und viele erwarben in der Ebene und auf den Hügeln am Zusammenfluss von Etsch, Eisack und Talfe Grundstücke, die mit Rebstöcken bepflanzt wurden. Ecco, basta, penso che facciamo così. Ecco, lei ha cominciato con l'autore principale della cosa, io invece comincio da un'altra parte e dico: essa, la porticina del vino, deve il suo nome alla vendita del vino che veniva effettuata presso la chiesa del Duomo di Bolzano, grazie a un privilegio accordato nel 1387 dal duca Alberto d'Austria. Ecco, vedete come anche proprio la lingua è ben radicata nel cervello e dà una sua armonia, un suo modo di porsi. Cioè, io comincio dalla storia del nome, il nome della porticina, e invece dal fatto, cioè una lingua che si basa più sui fatti, logicamente, comincia con il personaggio principale. Ecco, per dire. Poi un'altra cosa interessantissima che qui già notate, qui si parla del fatto che Bolzano e Gries erano due comuni diversi e anche addirittura la produzione del vino soggetta a due diverse potestà, volete chiamarle così, muri gris naturalmente importantissimi di qua del ponte, e di là del ponte ci racconta quest'altra cosa. Ecco, perciò il vino del vescovo, come dicevo qui, e qui diceva il vino di Bolzano che si vendeva presso il Duomo era di Santa Maddalena, differenziandolo così il vino del vescovo da quello dell'abbazia di Muri Gries. Allora, quello lì era il vino del vescovo e quello di Muri Gries, eccetera. Ecco, volevo solo darvi una chiave di lettura di questa cosa, ecco, più o meno. E questo più o meno, e poi continua con moltissime altre notizie. Perché ogni volta mi viene in mente, come ripeto, come continuo a dire, mi vengono in mente altre cose e su queste altre cose il mio cammin si perde, insomma. E allora il filo rosso è un po' sfilacciato. Comunque è questo l'itinerario ed è questa la curiosità, forse, quella di portare una notizia sull'altra, sull'altra, sull'altra. Questo dicevamo di Bolzano. Su Trento, naturalmente, Trento come capitale, come città dell'altra provincia, è una città che ha connotazioni più vescovili. E allora qui mi sono basata su cose più di questo tipo. Cioè, per esempio, ho visto che è piaciuto molto ad un giornalista che ha riportato un commento anche sul, e mi ha chiesto anche ieri nella conferenza stampa la storia di Martin Lutero e dei 3M della Chiesa. È una leggenda, naturalmente. Ma questa è una cosa che riguarda, adesso se lo trovo ve lo leggo, riguarda proprio particolarmente Trento, ma non è 34. Solo questo, 34 di là da te, e qua sarà. No, è sempre 34. 34, sempre 34, oh, che bellezza. Più o meno ci siamo. Ecco qua. Se la riforma protestante era stata l'origine dell'assise cattolica, non so neanche legge, per ribadire l'autorità papale in materia di fede tenutasi a Trento dal 1545 al 1563 con il nome di Concilio di Trento, la persona più attesa del capoluogo sarebbe certamente stato Martin Lutero. Gli storiografi dicono che Martino a Trento non venne mai, ma l'anedotica popolare invece rivela la sua venuta anche se di incognito. Si dice che un mendicante con un grande tabarro nero, sicuramente venuto dal nord, si aggirasse per Trento. Alcuni riconobbero in questo mendicante lo stesso Martin Lutero, che era venuto a sentire con le proprie orecchie quello che i padri conciliari dicevano di lui. Si dice che di notte si fosse recato in Santa Maria Maggiore, sede dello stesso concilio, e lì si era nascosto in un confessionale. Fuggì la notte dopo, ma prima di scappare segnò sulla parete della chiesa al centro della navata 7 M misteriose, messe a forma di piramide. La strana scritta fu interpretata così: maledetto Madruzzo, il cardinale del concilio, Martino mai muterà, meglio morire. È un aneddoto, naturalmente nessuno può giurare su questa storia, però era divertente e mi è venuto in mente e l'ho messa. E poi naturalmente moltissime altre cose. Io questa l'ho letta tutta così, vediamo se vuoi leggere qualcosina. No, anche qui c'è da dire che il tedesco comincia in un altro modo. Lo trovo molto interessante. No, io se la riforma protestante era stata l'origine allora di... Invece il tedesco, che forse delle volte più concreto, dico appunto das große Konzil der gegen Reformation, le date, war als Reaktion auf die Reformation und zur Bekräftigung der päpstlichen Autorität nach Trient einberufen worden. Mit besonderer Spannung wurde natürlich Martin Luther erwartet. Die Historiker bestreiten und so weiter. Und so weiter. Ecco. Questo a noi sembrava importante anche farvi notare questo, chi avesse voglia e intenzione di usare tutte e due le guide, credo che potrebbe anche avere una specie di idea di che cosa vuol dire vivere due culture ed essere bilingui. Ecco, più o meno questo è il discorso. Ecco, adesso magari avevi detto che volevamo parlare ancora piccole cose e poi lasciamo parlare anche gli altri, se no parliamo sempre noi, sì. Forse hanno da chiedere. Ah, un'altra cosa, parlavo per esempio di Brunico, mi è venuto in mente, ho solo aperto il libro così, io ho messo due cose buffe su Brunico. Brunico, vabbè, conosce tante cose di Brunico. Una è quella della birra, che c'era una birra famosa a Brunico, molto più famosa di quella della Forst. Ecco. E un'altra che mi è arrivata attraverso un lavoro fatto con un'amica che è qui, la Johanna, il fatto dei cappellai e dei berettai famosi per la città di Brunico, dei quali se non si fosse ripresa questa tradizione, diciamo questa conoscenza, forse nessuno si ricorderebbe. Ecco, cioè come si va avanti in questa maniera. Vuoi leggere due, magari questo qui dei berettai, solo un pezzettino? Che pagina? Prunek. No, pagina? Da, sì, 57. Ja. Im Brunecke Heimatbuch von Paul Tschurtschenthaler 1928 wird von Hute und Kappenstricker als traditionsreiche Berufe in Brunecke gesprochen, die um 1900 eine gewichtige Rolle im Stadtleben des Pustertaler Hauptortes spielten. Es heißt, und dann kam der Kappenstricker, ein Männchen so schmal wie sein Häuschen, das auch nur aus ein oder zwei Fenstern bestand. Wie ein Wettermännchen stand er bei Sonnenschein vor seiner Ladentüre und guckte bei Regen hinter den Scheiben heraus. Er sprach nicht viel, sondern ließ seine Ware reden, die schönen Pelzkappen, die man damals so liebte, und dann die goldgestickten Käppchen, die mancher Bürger am Kopfe trug und erst abends ablegte, wenn er seine Schlafhaube über die Ohren zog. Kein Mensch konnte sich den alten Grampen Much oder Vater Harasser ohne solche Kappe mit Goldtrottel denken. Ebenso wenig wie den Posthausknecht oder den alten Agarter ohne den blauen Fuhrmannskittel oder den Landrichter und Grafen ohne Bratenrock und Ischiasstock. Das war ein Zitat. E poi finisce con il suono si confondeva e armonizzava con il battere dell'apprendista bottaio, perché parlo anche dei bottai dopo, nella bottega del Binda Toni. Binda, Binda era il bottaio in quanto tale, no? Qui è un cognome, diventa un cognome, ma è una trasposizione, come spesso succede, del mestiere. Ecco, anche questo è un fatto così curioso in qualche modo. Ecco, naturalmente la valle che ha mantenuto, forse non solo, ma la valle non ladina, diciamo, che ha mantenuto le tradizioni più interessanti alla Val Salentina, e qui alla Val Salentina e al paese di Salentino ho dedicato molte cose. Una abbastanza divertente è come mai ci sono questi costumi, come si mantengono questi costumi, un'altra delle maschere rituali, dei clecla, e poi ancora dal punto di vista così del paesaggio, gli ometti di pietra di Salentino. Ecco. E poi ancora, in onore di una ricerca che aveva fatto il Paolo Cagnano, un giornalista, la storia della ricerca del pilota Wieser, che sono questi hanno ritrovato questi resti di questo pilota che era caduto nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco, più o meno come si svolge il discorso. Naturalmente, tornando a un'altra valle estremamente interessante, questa volta del Trentino, direi che forse potremmo prendere o la valle dove adesso Valtraud si è appoggiata, ti piace appoggiata? Che è la valle appoggiata. Non seduta. No, mi sembra molto ben detto, perché lei non è una creatura sedentaria, è una creatura volatile, così, si è appoggiata, è quella Valsugana, oppure parlare della più interessante, non così soltanto per dire, delle valli, forse più interessante anche cattivo, ma comunque una delle molto interessanti valle trentine, che è la Val di Non. Ecco, queste due, ecco, io leggerei un piccolo, se vuoi leggere qualche piccolissima cosa su Pergine, e poi dopo li lasciamo in pace, sta povera gente, cosa dice? Lo spiego un momentino in italiano. C'è un fatto, qui parla di uno stregone. Mi sono un po' informata nell'archivio storico dopo che avevo tradotto. E questo stregone effettivamente è registrato e tuttora esiste il maso da cui lui era nativo. E un giorno voglio anche vedere, perché deve essere ancora conservato abbastanza bene, cioè un maso dove lui viveva nel 1400, e questo era lo stregone Antonio Zundt. Beim Prozess gegen Antonio Zundt aus Castagnier di Pergine, der zwischen 1450 und 58 angestrengt wurde, handelt es sich um das älteste dokumentierte Gerichtsverfahren gegen einen Hexer auf Tiroler Boden. Hinweise auf diesen Prozess finden sich in Venedig und so weiter. Antonio Zundt ist kein großer Hexer. Ihm wird der Prozess gemacht, weil drei Landsleute ihn beim Hauptmann von Pergine angezeigt haben. Er wird beschuldigt, den bösen Blick auf sie geworfen und sie verhext zu haben. Als Beweis führen sie den angeblichen Diebstahl eines Kleides an, sowie die Verwünschungen, die Zundt gegen seine Ankläger ausgestoßen hatte und so weiter. Ecco, mi fa pensate, tornando al discorso della collaborazione, virgola, traduzione, è andata a vedere se avevo raccontato balle, perché se no non me l'avrebbe tradotto. È vero, no, ma pensate l'importanza di un discorso del genere, importantissimo secondo me, perché ti dà veramente intanto la voglia di cercare, la curiosità di cercare avanti, primo, questo stregone particolare, no? E poi anche la conferma che in fondo... No, non ho cercato conferme, è una cosa che è assolutamente da dire, che tutti questi temi a cui Bruna adesso accennava, dalla magia, la geologia, le vie del traffico, cioè è veramente un mondo, e possono essere per il lettore prima di tutto una può soddisfare certe sue curiosità, può imparare cose nuove e soprattutto può partire da queste storie e può andare alla ricerca per vedere, per approfondire, eccetera. E anche questo è un fattore molto importante per questo libro, che non è appunto un testo continuo, ma dà continuamente degli spunti, e delle volte sono appena accennati, sì. E delle volte sono molto approfonditi, storicamente soprattutto. Ecco, questo ci tenevamo a dire. Direi che apriamo forse anche al pubblico la possibilità di fare domande, visto che l'autrice è disponibile per... Volentieri. Se c'è qualcosa, volentieri. Se no, continuiamo a babbare, vero? Non è così importante. Ecco, c'è qualcuno che vuol chiederci qualche cosa? Ecco, come l'iter di questo libro ve l'ho già raccontato praticamente. E qui è proprio questo che credo faccia parte della mia natura. Questo andare parola per parola, ma dipende anche, secondo me, dal fatto di doversi, questo è una nota personale, di doversi confrontare con i fatti, con le cose, anche con la lingua. Se ti devi confrontare, allora ti viene voglia di andare oltre a cercare l'etimologia, di andare, di vedere come vanno avanti le cose, perché ci sono queste cose o queste altre cose. Questo succede in tutto, anche nella ricerca del perché determinate, tornando ad altri libri che non hanno niente a che fare con questo, quello che sono, per esempio, sono il mio Regno dei Fans, lì la mia ricerca era stata il perché queste montagne emanano questa storia, per esempio. Perché? Perché viene fuori questa storia, non un'altra storia? O perché in generale, lasciamo stare i fans, in generale le leggende vengono, sono la spiegazione di nuovo di un posto, di un pensiero, di qualche cosa. Sono il tentativo di spiegare questa meravigliosa natura che ci sta intorno e che ci è madre e matrigna nello stesso momento. Più o meno su questo iter si muovono, per me, si muovono le cose, e secondo questa linea abbiamo messo insieme tutte le curiosità e abbiamo fatto una guida curiosa. Speriamo che susciti anche la vostra curiosità, questo dovrebbe essere interessante. C'è qualcuno che vuol chiederci qualcosa? No, vi abbiamo stesi, insomma. No, ma se fai un paragone fra il Trentino e l'Alto Adige, allora amo le due terre, naturalmente. Io sono come tutti, come qua, e io ho una parte sud tirolese, una parte trentina. La famiglia di mio padre, in fondo, non in fondo, senza in fondo, veniva dalla Val di Non, veniva da Cles, sono dal lago di Cles. E dico anche von Stern, lo dico e basta. Comunque c'è la casa a Clesse, perciò questa passione. Poi ho vissuto abbastanza a Cavalese, dove c'era la mia nonna, sempre la mia nonna paterna. Ho vissuto molto le Valli Ladine, ragion per cui non ho un amore diverso per le due terre, ma ho un tentativo, cioè tento di, purtroppo non so più, che sapevo un po', non so quasi più il dialetto trentino, lo capisco, mi piace, ma non parlo, no. Però mi piace arrivare dentro nel profondo di queste cose. Per esempio, l'altro giorno siamo andati a vedere un film che è quello sugli spazzacamini, Schwarzbrüder, non so se l'avete, qualcuno di voi l'ha visto, ed è la storia degli spazzacamini che venivano, allora, questi di cui si parla nel film, dal Tesino, e venivano portati a Milano, venduti a Milano per lavorare come piccoli spazzacamini, questi ragazzotti, eccetera. Nella nostra tradizione locale, invece, questi stessi spazzacamini, questi bambini che venivano venduti, ceduti, affittati, mettetela come vi pare, a questi maestri artigiani, cioè questi spazzacamini, venivano dalla Val di Non e andavano nelle zone di Bolognese, ma non tanto Mantova, quello era più per i tesini, proprio Bologna, Parma, Perugia, queste zone qui, fino a Firenze, questi nostri tesini, c'è tutta questa storia. Perciò anche lì questa questa differenza però che li unisce di nuovo, due terre diverse, due discorsi diversi, due stesse tragedie, li unisce una lingua, questo è molto interessante, li unisce una lingua che è una lingua segreta, che hanno questi spazzacamini fra di loro e che appunto per comunicarsi quando arrivano i gendarmi, quando devono nascondersi, dove c'è da mangiare, se ti danno, se il padrone dà o non dà da mangiare, e c'è questo argot in definitiva, questa lingua segreta che li unisce. Ecco, vedete un altro aspetto diverso di più che altro curiosità. Poi un'altra cosa, le stufe, le famose stufe Ole meravigliose, di quali noi tutti stiamo orgogliosissimi in Alto Adige, in fondo a Struff sono le stufe anabattiste, così si chiamano, perché quelli di Faenza erano venuti ad aiutare gli abitanti del posto che costruivano queste stufe a Ole, proprio quelle, e si chiamano le stufe anabattiste, si chiamano così, e sono le stesse stufe, per dirvi. E avanti, e avanti, e avanti, e a cavalleria. Qui. Che sono. Grazie. Non si finisce più, non si finirebbe più. Siamo una stati cosa. Noi a. A dire basta, basta. Stop. Mi hanno detto basta. Quanti mesi, anni, giorni, lavoro? Ah, non conto mai queste cose, se no dovrei dire che insomma sono quasi alla fine del mio corso, perciò è meglio che non lo dica, mi vergogno, non lo dico. Tanto comunque, tanto. Ma sai, sì, tanto. Perché non è anni. Che si fa una... Tanto, però non è. Ogni giorno metti via qualcosa, e in fondo è la ricerca di una vita, se vuoi metterla così. Cioè tutti coloro che scrivono, e ce ne sono più di uno anche qui, è la ricerca di una vita che tu metti giù. Tu fai la scultrice, la tua è la ricerca di una vita, Siglinde, non è la ricerca di un'idea che ti è venuta in quel momento, è la ricerca di una vita. Ecco. Grazie. E sono gli accadimenti della vita che incidono sulla ricerca. Ecco, e allora viene fuori di nuovo le provenienze, le commissioni, e via, via, via. I dolori, le sofferenze. E poi questo spirito, questo sì è uno spirito mitteleuropeo, in fondo, che dopo la settimana santa, dopo la settimana dei dolori, viene la domenica delle Pasque, viene la festa. E questo è anche una parte importante, cioè la parte allegra, la parte giuliva del discorso, che mi sembra positiva. Ecco, una visione positiva sulle cose. Grazie. Oh my God, tanto bene, con fiori, con fiori. Che belli, eh? Grazie a tutti per la pazienza e per tutto. Grazie. Chiedo ancora una cosa.